Ad alta voce, Valentina Carnelutti legge Cent'anni di solitudine di Gabriel García Márquez. Traduzione di Enrico Cicogna. In realtà, malgrado tutti lo considerassero pazzo, José Arcadio II era in quei tempi l'abitante più lucido della casa. Insegnò al piccolo Aureliano a leggere e a scrivere, lo iniziò nello studio delle pergamene e gli inculcò un'interpretazione così personale di quello che era stata per Macondo la compagnia bananiera, che molti anni dopo, quando Aureliano fece il suo ingresso nel mondo, tutti avrebbero pensato che raccontava una storia delirante, perché la sua versione era radicalmente contraria a quella falsa che gli storici avevano accolto per buona e consacrata nei testi scolastici. Nella stanzetta appartata, dove non era mai arrivato il vento arido, né la polvere, né il caldo, entrambi si ricordavano della visione atavica di un vecchio col cappello ad ali di corvo che parlava del mondo dando di spalle alla finestra, molti anni prima che loro nascessero. Ambedue scoprirono che lì era sempre marzo e sempre lunedì, e allora capirono che José Arcadio Buendía non era così pazzo come raccontava la famiglia, ma che era invece l'unico provvisto di sufficiente saggezza da intravedere la verità che anche il tempo subiva inciampi e incidenti e poteva pertanto scheggiarsi e lasciare in una stanza una frazione eternizzata. José Arcadio II era riuscito inoltre a classificare le lettere criptiche delle pergamene. Era sicuro che corrispondevano a un alfabeto da 47 a 53 caratteri, che separati sembravano ragnetti e sgorbi, e che nell'accurata calligrafia di Melchiades parevano biancheria messa ad asciugare su un filo di ferro. Aureliano si ricordava di aver visto una tavola simile sull'enciclopedia inglese e la portò nella stanza per confrontarla con quella di José Arcadio II. Infatti erano uguali. Nell'epoca in cui gli venne in mente di organizzare la lotteria con gli indovinelli, Aureliano II si svegliava con un nodo alla gola, come se stesse reprimendo la voglia di piangere. Petra Cotes lo interpretò come uno dei tanti malanni provocati dalla cattiva situazione e tutte le mattine, per più di un anno, gli spennellava il palato con uno stecco intinto in miele d'api e gli dava sciroppo di rafano. Quando il nodo alla gola gli si fece così opprimente che faticava a respirare, Aureliano II andò a trovare Pilar Ternera per sapere se lei conoscesse qualche erba alleviante. La incrollabile nonna, che era arrivata ai 100 anni alla testa di un piccolo bordello clandestino, non prese in considerazione le superstizioni terapeutiche, ma preferì consultare le carte. Vide il fante di denari, con la gola ferita dal ferro del fante di spade, e ne dedusse che Fernanda stava cercando di far tornare il marito a casa mediante lo screditato sistema di conficcare spilli nel suo ritratto, ma che a causa di una maldestra applicazione delle sue arti malvagie gli aveva provocato un tumore interno. Dato che Aureliano II non aveva altri ritratti che quello delle sue nozze e le copie erano tutte nell'album di famiglia, continuò a cercare per tutta la casa di nascosto da sua moglie e alla fine trovò in fondo all'armadio mezza dozzina di pessari nelle loro scatoline originali. Credendo che i rossi anellini di gomma fossero oggetti di stregoneria, se ne mise uno in tasca per farlo vedere a Pilar Ternera. Lei non poté determinarne la natura, ma le parve così sospetta che in ogni modo si fece portare la mezza dozzina e la bruciò in un falò che accese nel patio. Per scongiurare il presunto maleficio di Fernanda, suggerì ad Aureliano II di bagnare una gallina chioccia e di sotterrarla viva sotto il castagno. E lui lo fece con tanta buona fede che quando finì di dissimulare con foglie secche la terra rimossa, sentiva già di poter respirare meglio. Da parte sua, Fernanda interpretò la sparizione come una rappresaglia dei medici invisibili e si cucì nella parte interna della sottana una tasca nella quale conservò i pessari nuovi che le mandò suo figlio. Sei mesi dopo il seppellimento della gallina, Aureliano II si svegliò a mezzanotte con un accesso di tosse e sentendo che lo strangolavano da dentro con pinze di granchio. Fu allora che capì che per quanti pessari magici distruggesse e per quante galline da scongiuro seppellisse, l'unica e triste verità era che stava per andarsene. Non lo disse a nessuno. Tormentato dal timore di morire senza poter mandare Amaranta Ursula a Bruxelles, lavorò come mai aveva fatto e invece di una fece 3 riffe alla settimana. Lo si vedeva percorrere il villaggio fin dalle prime ore del giorno, perfino nei rioni più lontani e miserevoli, cercando di vendere i bigliettini con un'ansietà che poteva essere concepibile soltanto in un moribondo. «Ecco la divina provvidenza», annunciava. «Non ve la lasciate scappare perché arriva una sola volta ogni 100 anni». Faceva sforzi commoventi per sembrare allegro, simpatico, loquace, ma bastava vedergli il sudore e il pallore per sapere che teneva l'anima coi denti. Certe volte deviava per terreni incolti dove nessuno lo potesse vedere e si sedeva un momento a riposare dalle fitte che lo straziavano dentro. A mezzanotte era ancora nel rione di tolleranza, cercando di consolare con pronostici di buona fortuna le donne solitarie che si inghiozzavano vicino ai fonografi. «Questo numero non esce da 4 mesi», diceva loro mostrando i bigliettini. «Non lasciartelo scappare, che la vita è più breve di quello che si crede». Finirono per perdergli il rispetto, per burlarsi di lui, e nei suoi ultimi mesi non gli davano ormai più del Don Aureliano, come avevano sempre fatto, ma lo chiamavano sfacciatamente Don Divina Provvidenza. La voce gli si andava riempiendo di note false, gli si offuscò a poco e finì per spegnersi in un ronfio da cane, ma ebbe ancora la forza di far sì che non decadesse l'attesa per i premi nel patio di Petra Kotes. Tuttavia, a mano che la voce gli si affievoliva e si accorgeva che avrebbe potuto sopportare il dolore ancora per poco, cominciava a capire che non era con maiali e capri riffati che sua figlia sarebbe arrivata a Bruxelles, di modo che concepì l'idea di fare la favolosa riffa delle terre distrutte dal diluvio, che potevano essere egregiamente restaurate da chi fosse fornito di capitale. Fu una iniziativa così spettacolare che lo stesso alcalde si prestò ad annunciarla con un bando e si formarono società per comprare biglietti a 100 pesos l'uno che si esaurirono in meno di una settimana. La sera della riffa i vincitori fecero una festa straordinaria, paragonabile appena a quella dei bei tempi della compagnia bananiera, e Aureliano II suonò con la fisarmonica per l'ultima volta le canzoni dimenticate di Francisco e l'ombre. Ma ormai non ce la faceva più a cantarle. Due mesi dopo, Amaranta Ursula se ne andò a Bruxelles. Aureliano II le consegnò non solo il denaro della riffa straordinaria, ma anche quello che era riuscito a economizzare nei mesi precedenti e i pochi soldi che aveva ottenuto dalla vendita della pianola, del clavicembalo e delle altre cianciafruscole cadute in disgrazia. Fernanda si oppose al viaggio fino all'ultimo momento, scandalizzata dall'idea che Bruxelles fosse così vicina alla perdizione di Parigi, ma poi si calmò con una lettera che le diede padre Angel per una pensione di giovani cattoliche diretta da religiose, dove Amaranta Ursula promise di vivere fino al termine dei suoi studi. Inoltre, il parroco riuscì a far sì che viaggiasse sotto la tutela di un gruppo di francescane dirette a Toledo, dove speravano di trovare gente di fiducia per mandarla in Belgio. Mentre si intrecciava la sollecita corrispondenza che rese possibile questo coordinamento, Aureliano II, aiutato da Petra Kotes, si occupò del bagaglio di Amaranta Ursula. La sera in cui prepararono uno dei bauli nuziali di Fernanda, le cose erano così ben sistemate che la studentessa sapeva a memoria quali erano i vestiti e le babbucce di velluto coi quali doveva fare la traversata dell'Atlantico e il cappotto di panno blu con bottoni di rame e le scarpe di marocchino coi quali doveva sbarcare. Sapeva anche come doveva camminare per non cadere nell'acqua quando fosse salita a bordo lungo la passerella, che non doveva separarsi per nessuna ragione dalle monache né uscire di cabina se non per andare a mangiare, e che per nessun motivo doveva rispondere alle domande che gli sconosciuti di qualsiasi sesso le dovessero fare in alto mare. Aveva con sé una boccettina con gocce per il mal di mare e un quaderno con 6 orazioni composte personalmente da Padre Angel e scritte di suo pugno per scongiurare la burrasca. Fernanda le confezionò una fascia di tela dove poter nascondere il denaro e le insegnò il modo di portarla intorno al corpo, di modo che non avesse bisogno di levarsela nemmeno per dormire. Cercò di regalarle il pitale di oro lavato con lisciva e disinfettato con alcol, ma Amaranta Ursula lo rifiutò per paura che le sue compagne di collegio si burlassero di lei. Pochi mesi dopo, nell'ora della morte, Aureliano II l'avrebbe ricordata come la vide per l'ultima volta, mentre cercava di abbassare, senza riuscirvi, il finestrino polveroso del vagone di seconda classe per ascoltare le ultime raccomandazioni di Fernanda. Portava un vestito di seta rosa con un mazzolino di viole del pensiero artificiali sull'allacciatura della spalla sinistra, le scarpe di marocchino con fibbia e tacco basso e le calze satinate con gli elastici ai polpacci. Il corpo minuto, i capelli sciolti e lunghi e gli occhi vivaci erano quelli di Ursula alla sua età, e il modo con cui si accomiatava senza piangere ma senza sorridere rivelava la stessa forza d'animo. Camminando accanto al vagone mentre il treno si metteva in moto e tenendo Fernanda per il braccio perché non inciampasse, Aureliano II riuscì appena a rispondere con un saluto della mano quando la figlia gli mandò un bacio con la punta delle dita. La coppia rimase immobile sotto il sole incandescente, guardando il treno che si confondeva poco a poco col punto nero dell'orizzonte e sotto braccio per la prima volta dal giorno delle nozze. Il 9 di agosto, quando ancora non era arrivata la prima lettera da Bruxelles, José Arcadio II chiacchierava con Aureliano nella stanza di Melchiades e, senza che c'entrasse per niente, disse: «Ricordati sempre che erano più di 3.000 e che li hanno gettati in mare». Poi stramazzò sulle pergamene e morì a occhi aperti. In quello stesso istante, nel letto di Fernanda, il suo fratello gemello giunse alla fine del prolungato e terribile martirio dei granchi di ferro che gli avevano roso la gola. Una settimana prima era tornato a casa senza voce, senza fiato e ridotto quasi alle sole ossa, coi suoi bauli da transumante e la sua fisarmonica da vagabondo, per mantenere la promessa di morire accanto a sua moglie. Petra Cotes lo aiutò a raccogliere la sua roba e gli disse addio senza spargere una lacrima, ma si dimenticò di dargli le scarpe di vernice che lui voleva portare nella bara. Di modo che, quando seppe che era morto, si vestì di nero, avvolse gli stivaletti in un giornale e chiese a Fernanda il permesso di vedere il cadavere. Fernanda non la lasciò passare dalla porta. «Si metta nei miei panni», supplicò Petra Cotes. «Immagini quanto gli devo aver voluto bene per sopportare questa umiliazione». «Non c'è umiliazione che valga per una concubina», ribatté Fernanda. «Aspetti quindi che muoia un altro dei tanti per mettergli quegli stivaletti». Per mantenere la sua promessa, Santa Sofia della Pietà sgozzò con un coltello da cucina il cadavere di José Arcadio II per essere certa che non lo seppellissero vivo. I corpi furono messi in 2 bare uguali e allora si vide che tornavano ad essere identici nella morte, come lo erano stati fino all'adolescenza. I vecchi compagni di baldoria di Aureliano II misero sulla sua cassa una corona con un nastro viola su cui era scritto «Scostatevi, vacche, che la vita è breve». Fernanda fu così irritata da quella insolenza che fece buttare la corona nella spazzatura. Nella confusione dell'ultima ora, gli avvinazzati tristi che li portarono via dalla casa confusero le bare e li seppellirono in tombe scambiate. Aureliano non lasciò per parecchio tempo la stanza di Melchiades. Imparò a memoria le leggende fantastiche del libro squinternato, la sintesi degli studi di Hermann il Paralitico. gli appunti sulla scienza demonologica, le chiavi della pietra filosofale, le centurie di Nostradamus e le sue indagini sulla peste, di modo che giunse all'adolescenza senza saper nulla della sua epoca, ma con le nozioni fondamentali dell'uomo medievale. A qualsiasi ora entrasse nella stanza, Santa Sofia della Pietà lo trovava assorto nella lettura. Gli portava allo spuntare del giorno una scodella di caffè senza zucchero e a mezzogiorno un piatto di riso con fette di banana fritta, che era l'unica cosa che si mangiasse in casa dopo la morte di Aureliano II. Si preoccupava di tagliargli i capelli, togliergli le lendine, di adattargli la roba vecchia che trovava in bauli dimenticati, e quando cominciarono a spuntargli i baffi, gli portò il rasoio a mano libera e la tazza per il ranno del colonnello Aureliano Buendía. Nessuno dei figli del colonnello gli somigliò tanto quanto quel bastardo, nemmeno Aureliano José, soprattutto per via degli zigomi pronunciati e per la linea risoluta e un poco sprezzante delle labbra. Come era successo a Ursula con Aureliano II, quando questi studiava nella stanza, Santa Sofia della Pietà credeva che Aureliano parlasse da solo. In realtà chiacchierava con Melchiades. In un mezzogiorno infocato, poco dopo la morte dei gemelli, vide contro il riverbero della finestra il vecchio lugubre col cappello ad ali di corvo, come la materializzazione di un ricordo che era nella sua memoria fin da molto tempo prima di nascere. Aureliano aveva terminato di classificare l'alfabeto delle pergamene, e così, quando Melchiades gli chiese se aveva scoperto in che lingua erano scritte, lui non esitò a rispondere: in sanscrito. Melchiades gli rivelò che le sue possibilità di tornare nella stanza erano contate, ma se ne andava tranquillo nelle praterie della morte ultima, perché Aureliano aveva il tempo di imparare il sanscrito negli anni che mancavano prima che le pergamene compissero un secolo e potessero essere decifrate. Fu lui che lo informò che nella viuzza che finiva sul fiume, e dove all'epoca della compagnia bananiera si indovinava il futuro e si interpretavano i sogni, un savio catalano aveva un negozio di libri dove c'era un sanscrit primer, che sarebbe stato divorato dalle tarme 6 anni dopo se lui non si fosse affrettato a comprarlo. Per la prima volta nella sua lunga vita, Santa Sofia della Pietà lasciò trapelare un sentimento, ed era un sentimento di stupore, quando Aureliano le chiese di portargli il libro che avrebbe trovato tra la Gerusalemme liberata e i poemi di Milton nell'estremità destra del secondo piano degli scaffali. Dato che non sapeva leggere, si imparò a memoria la chiacchierata e si procurò i soldi vendendo uno dei 17 pesciolini d'oro che restavano nel laboratorio. Soltanto lei e Aureliano sapevano dove erano andati a finire la notte in cui i soldati avevano perquisito la casa. Aureliano progrediva negli studi del sanscrito, mentre Melchiades andava facendosi sempre meno assiduo e sempre più lontano, sfumandosi nel chiarore radiante del mezzogiorno. L'ultima volta che Aureliano lo sentì era appena una presenza invisibile che mormorava: «Sono morto di febbre nelle sirti di Singapore». La stanza divenne allora vulnerabile alla polvere, al caldo, al tarlo, alle formiche rosse, alle tarme che avrebbero trasformato in segatura la saggezza dei libri e delle pergamene.